spizzata. Avremmo già la pelivella a parte le mani in piedi. Ci ho messo la carta di bella per poter modulare col microfono, perché ho preso quel microfono di città mercato. Arrivo con i 200 euro, sto arrivando, e mi dai l'857. Mi la pigliate, ti ci questo se lo vuoi, io sai. No. Se lo vuoi, mi la pigliate, ma non c'è problema. Non sto scherzando, se ti serve vieni a prendere, tanto è qui, in scatola, a un certo punto. Ascoltate, fate la fila che siete entrati dopo. Giusto, devo pigliare il bigliettino. Scusate, state spingendo da poco fa. Allora, Antone, 200 euro, 857 scrivania. Lo saranno. Capito, T, mi voleva dare l'857 per miseri 200 euro, però la scrivania non me la vuole dare. Ah, io, Antone, ma quando mai? Però anche tu, Marco, vai, giudici 20 euro, vai. Marco, facciamo una via di mezzo. Allora, l'857D, Marco, ci siamo. Senza scrivania. Va bene. Scendiamo al centro storico e facciamo due giorni a cosa? A giocare. Va bene, facciamo ping pong, paghi tu. E le palle chi ce le mette? Le racchette le metto io. Io te ne do 150, a me ne va. Le palle sono Simone. Le metto io, lo sai, le palle. E anche la misura del coso. Del microfono. Dell'asta. Mi illuminavo e fissato il microfono dell'asta. Ma ce l'hai fatto o non l'hai fatto? Guarda, c'ho il microfono a te. Due secondi ti mando la foto. Cazzo mi esce. Stavo mangiando cazzo la pizzetta. Aspetta 2 minuti, ti faccio la foto, almeno sei tranquillo. 2 minuti. Eia. Altro che pizzetta. Mi è andata di traverso la birra. No, la pizza va di traverso, non la pizzetta. Prima l'ho avuto fare di gatto da mangiare e Simone, cosa del genere. Adesso sto mangiando io, a un certo punto. Stavo calando, ah, guarda che mi è venuto di traverso, mi è sceso a casa. E quindi sono tranquillo, grazie a Dio. Aspetta che gli faccio la foto di quel microfono tipo città mercato, già te lo ricordi, l'ho fatto vedere a te una volta. Scusate che non abbassa. Sì, a un certo punto. A un certo punto. Uiuia. E sono entrato così per salutare Antonello, dai, ho fatto la battuta. 200 euro, 857. Sarebbe un pazzo. Ok, ciao Antonio, Luca, Tino, tutti, io vi do un bacio in fronte e vado a vedermi la televisione, ok? Ci sentiamo. Ehi, ma alla fine quanto ci vale questo 857? Tu, lo sai anche tu. Aspetta un secondo, faccio una fotografia di quel microfono che mi ha chiesto un cancelleva, quello di città mercato. Simile, vabbè, quello che è città mercato, quello che conta, 2 minuti. Tanto beh, nuovo di negozio, io all'epoca costava 800 e tanti, 850, una cosa del genere. Poi ad Antonello gli avevo dato 500 forse. Quello è, vabbè, quadribanda, non è solo che fa HF, 50 MHz, VHF, UHF, tutti i modi di emissione, capito? MFM, SB, CV, CV, PSK, non mi ricordo nemmeno. Ma non è fatto per l'AM quello, in AM non è un granché. Esce bene lo stesso, vuoi che non esca bene, grazie a Dio. È arrivato giusto, quindi. Cioè va bene, ci vuole. Mi ha solamente equalizzare la modulazione e basta, però come ha parlato esce bene, grazie a Dio, Marco, già lo sai che tu. Però è veramente bello. È un peccato, guarda. Per quello che mi ha dato a me, è un peccato, guarda. È un bel apparecchio, fa tutto, ci manca solamente che faccia il caffè, la verità. E costa 1150 euro, l'otto 57D, se vai a comprare un nuovo, che cos'è quello lì? Qui c'è tutto il scatolato, eccetera, eccetera, adesso, vabbè. Guarda che ti faccio lo scontrino, così ti faccio vedere. L'ho conservato, quindi figurati tu. Sono prezzi fuori mercato, Antonio. Quei prezzi cinesi sono fuori mercato, non vanno considerati. Se lo trovi ancora in Italia costa 800 e spiccioli, siamo sempre lì. Dai, chiudo QRP esecutivo, vai Luca. Ma Richiara, di Gargamella era Pupo? Non l'ho capito. C'era di Gargamella quella radio? Di Gargamella? Sì. No, l'ho comprato a Marco, io l'ho comprato a mille. Io so che era di Gargamella. Ma sei scemo quasi, boh. Marco l'ha comprato, quattro da internet l'ha comprato. Dopo l'ha preso lui, l'ha usato lui, poi l'ha pronto a me. Il discorso è quello, e c'ho anche lo scontrino. Cosa caga? Tocca chi tocca. Boh. Intanto diventano tante, Marco mi. A chi è Gargamella? Un CB? Magari che su Gargamella. Ehi, un CB, uè. C'ho lo scontrino me, addirittura, figurati tu, comprato da Marco, c'è il nome e cognome suo, la ditta dove l'ha comprato lui, c'è tutto, non l'ho comprato da nessun altro, l'ho comprato solamente da Marco, preso esclusivamente da Marco. Oh, io so che era di Gargamella, poi non lo so, vabbè. Era dei puffi. Allora ti ho detto cazzate, ti ho detto veramente cazzate. A un certo punto, perché se vuoi ti mando la... A un certo punto. Sì, no. C'è ancora lo scontrino qui, conservato, figurati tu. Con nome e cognome di Marco, figurati tu. E quanto l'ha pagato lui? Figurati tu, Marco l'ha pagato 700 e passa euro. A me l'ha dato 500. E basta. No, con l'IVA sono 8 e fruscia. Più la spedizione c'era nello scontrino. E vabbè, non c'è problema per quello, ma comunque sia, a me me l'hai venduto di meno, il discorso è quello lì. C'è lo scontrino, non è che me lo sono dimenticato cosa, c'è lo scontrino insieme al pacco, c'è la scatola, c'è lo scontrino suo. Prima non c'è in pratica il kit per poterlo installare in macchina, prendeva l'apparato e lo pagava. Aspetta. In quello che ha piatto Marco c'è il kit completo per poterlo installare in macchina, cioè metteva in pratica il frontalino avanti e il resto dietro il cofano e cose del genere. Quindi ce ne sono pochi di quelli, ce ne sono veramente pochi. E guarda quella cifra lì, costa, comprato nuovo su AliExpress, costa 1000 e passa euro, nuovo. Quindi, vedi tu, Luca, non lo so io. Marco me l'ha venduto meno di quello lì, ma molto molto di meno. Tu ma sono stato 200. Quanto? Ho fatto 200 euro per la scrivania. Così ho capito. No, stavo facendo scherzare, ma lui sei scemo forte, sei scherzato, 300, ho detto scherzando, meno di 500 quello non si muove da qua a casa, no? Questo è poco ma sicuro, ho sempre fatto così, 500 euro massimo, e Luca già lo sa, Luca è flipper, 500 in contanti, solanti, e l'apparato va via, se no non si muove, che cosa è quello, è nuovo, inscatolato dentro la scatola, perché io qua di fronte non ce l'ho adesso, ce l'ho dentro la scatola, ho messo dentro la scatola, imbustato e tutto come la prima, come mi è stato dato da Marco, quindi nel caso rimane lì. Non sto vendendo un cavolo che in pratica che dopo tanto tempo devi stare a metterlo fuori, a controllare se c'è problemi di condensatura, eccetera, eccetera. Ormai i tempi dei 440, 430, 140 quello, sono finiti. Quella parte costava poco, veramente poco. Adesso puoi comprare anche 200, 400 euro per comprare, non 500 come quello che ho io, 50 in banda, eccetera eccetera, che sono, anzi, il meglio che c'è nel top picchiato, avevo detto su Facebook, o non lo so, ognuno può fare, può dare le conclusioni, quello che è, altro non posso dire, ognuno le valuta le cose sue, la tasca sua, eccetera eccetera, purtroppo è così. Cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Carità, c'ho un culma di basta, ho mangiato roba grassa e non va bene, queste cose non le devo mangiare. E avanti. Calmo, bello. Cosa vuoi che ti dica? Oh, Luca. Tengo riserva. Ah, Oh, yeah. Duro, duro. Ebbene, Antonio, ciao, buonasera. Avete parlato in quattro. Vabbè, allora riprendo io che sono il quarto sicuramente. Ah, duro duro sì. Ma in fianco stai a sovramodularmi? Ah, tu, duro duro sì. Ma fai di bravo. Sei di male, Antu, io tutto la... Vedi un po'. Sta uscendo male, Antu. Ancora male sto uscendo, vedi adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, Adesso va bene. C'ho con la fatta di calzata. Sì, beh, tu che una bustina mi prendo qua. C'ho come di matta, mi rimandano. Bene, buonasera a tutti comunque. Capo, buonasera Antonio. Ciao anche a te Antonio, Antonello, Luca. Poi c'è Alci, qualche domanda? Azzardo c'è, Azzardo, ma che Azzardo? No, si è spostato su lui, c'è con Zebra. C'è anche Marco, c'è. Ma è questo Gargamella chi è? Oh, Anto, mica c'è pure stavare all'857 201, ti interessa? Sicuro che glielo così, non sai Marco tu. Veloce bene, mia, Antonio. Grazie. Ho anche di scatola. Ma quello di Gargamella? Cazzo, in tanto azzurra, disegni, l'857 per la scrivania, Anto ti interessa 200 euro, 857 per la scrivania, la vuoi? Sì, sì, bella. Eia. Non lo so, no, vabbè, la scrivania non sapevo veramente, l'857 è già un buco, già io lo trovo. Ascoltate la scrivania che ce l'ho messo dentro. Ma questo 857 lo vuoi vendere o lo vuoi vendere? A Macco, lo sanno. Oh, ma è qua. Vabbè, pazienza. Ti posso fare l'857, una gamba, no, una gamba no, non la mia naturalmente. Ti posso fare l'857 o... E andiamo a fare anche qua. Un bel apparacchi ci abbiamo, l'apparacco respiratorio, l'apparacco digerente, tutto ci abbiamo, se lo vuoi non c'è problema, tutto a poco prezzo, tutto barato. Ma cosa mi hai detto che manca a due, tanto che la vai a trascinare laggiù? Mancando mai, oioia. Cosa ridare? Cazzarola, oh. Beh, a me è venuta l'ora, dai, che io sono stanco. Domani a Mazzano sono a Rugucco, in Oghi. Dai, buonanotte a tutti, in generale. Antonio chiude le trasmissioni, ce la risentiamo domani, se coincide. Ciao, ciao. Ciao, Antonio, a domani, dai. Buon lavoro, buon tutto. Ci sentiamo domani sera verso le 7:30 quando diventi, da. Sì, la riprendo io. Ciao Antonio, buonanotte, sogni belli, ciao. Ciao, ciao. Allora, 9:20 mi stai arrivando, bella mossa. Ma chi è Antonio? No, tu. Anche Pompogno è un po' di più di 9:20. Però cavolo, tu stai arrivando forte. Porca miseria. Senti, voi a 9:20, Antonio, com'è possibile? No, tu sei 9:30, è più. Ah. Cioè, non lo posso sopportare che Pompogno arriva più forte di me. Ma mica tanto. Ok, dai, buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao ciao di nuovo, Luca. Ciao Pomponi, ci sentiamo. Io so. Stavo rifando il microfono a Gianni. Adesso gli metto quello termosaldante, una cazzo, o la guarnizione con la guaina. Termo restringente. Sì, termo restringente, cos'è? E il capo è di quelli più sottili, capito? Stava statico. Praticamente si è tutto squagliato. E allora niente, dai. Tipo un guis, faccio risato lo spinotto, li metto quello lì. E già fa meglio, cioè fa più bella figura della cisolante. Più meglio sicuramente. Più meglio sì, più migliore o più meglio? Attenzione, brecco brecco! Avanti, avanti! Ma ha col scendo con questo baracco? Sì, sì, sta scendo proprio. Tutto quanto strano, ma sta scendo. Comunque va bene lo stesso. Ma strano sei tu prima di tutto. Sei tutto cupo, sei. Cupo, la cupola di Santa Maria. Ma no, vabbè, sei cupo la vera me. Ciao, amico. Sì, 5-5. Perché è troppo... Vabbè, il microfono sicuramente viene tutto. A tutti, però strano, sì. Boh, non lo so, sei strano, No, non è brutta la modulazione, però è come se il microfono fosse a destra e lui stesse a parlare da lontano. Aspetta, dai, perché magari avevo toccato il microfono, guarda adesso. Fai un passaggio lungo. Sì, 1, 2, 3, 4, dove ti dica, io volevo registrare un pochino anche il microfono, che sicuramente l'ho toccato. No, è male. Vabbè, devi considerare che io ce l'ho parlante mezzo andato. Sono i bassi comunque c'hai, E quindi devo essere vedere. Adesso li ho tutti, guarda un attimino, adesso sono a zero. Un po' meglio va, la verità. Cosa? Fa un po' meglio. Guarda un attimino, ti posso aumentare un pochino l'amplificazione, guarda, si è aumentato qualcosa. Adesso va meglio, lasciamo così, non toccare più niente. E beh, tu com'è? Ma sì, così, niente di che, un po' abbastanza vuota, a me. Ma perché sei strappa, sì, così sì, a te cambio radio. Sì, perché ho questo apparecchio che ogni tanto dai capricci. Eccomi, sono qua, vabbè, questa è totalmente diversa, e volevo strappare. Vabbè, lì c'è la sua guba. Sì, ma il segnale si è abbassato però. Peccato che con l'altro sta parlando circa 200 watt. Ah, ecco, visto. Però se cambia la modulazione ne ero certo, perché non ho altri microfoni da adattare sicuramente. Aspetta, lo faccio sentire, se mi ricordo che il microfono suona normale, se riesco a trovarlo, perché mi ha detto così, non lo so. Vabbè, dammi un minuto. E io vabbè, già siamo qua. Ho fatto una cosa, Gargamella? Sì, quello che è il padrone della parete di coso, di Antonello. Via, lo vedi, mi stai, anche Antonio, anche Antonio Riserva lo sa. Cazzo, ma vieni, parlo un culo, Antonio, buon pollo. Non è sordo. È sicuro. Vabbè, Antonio, diglielo tu, buon pollo, va. Riserva, diglielo tu. Guarda, ora ce va bene questo, Antonio. No, ti preferivo prima. A chi sei tutto drodiato, Antonio? Io ti ascolto male, ma malissimo, non male. Claudio, cioè, mi ascoltano male tutti, non solo tu. Stai uscendo tutto a scariche, tutto a inneschi, vabbè. Tino qua va bene, sia la prima modulazione che l'altra. Questo qua è il microfono normale, Ah, ma andava bene anche prima, molto meglio di questo. Cosa vuoi che dica? Se non mi ricordo male, niente, provo a cambiare. No, ma perché hai cambiato? Andava meglio l'altro microfono, ti ho detto. E quello che gli ho detto anch'io, che prima andava meglio. Aspetta. Eccomi, guarda un attimino, vabbè, aspetta che faccio... Allora, solitamente l'ho utilizzato così, ha cambiato qualcosa? Ah, c'è la stare così che vai benissimo, io col Galaxy ti ascolto benissimo. Boh, non so che dirvi, qua i toni sono a due e il mitigine è un po' quasi a sette, dai. Certo, lascialo così che va bene. Allora Antone, che barbecco lo stai dicendo? Adesso ho capito, guarda che ne ho io. Ascolti bene, ascolti con questo, sì. Questo, sì. Aspetta un attimo. Questo è l'omologo. Continuate, dai, che continuo a guardarmi la televisione. Ciao. Ciao. Va bene, dai. Tanto quindi non ti piace questo. No, io sono abituato a sentirti con l'altra. Vabbè, ma io te l'avevo tanto a radio e non poterlo utilizzare, invece ogni tanto utilizzi questa, scalda un pochino, anche questa, sì, poi si raffredda, poi si ammassa, io sai come funziona, no? E tu fai come faccio io, ti tieni lo spento, il K usa sempre una così, vedi? Vedi, a me mi ha riconosciuto subito Antonio. Basta usare sempre lo stesso baracchino. Sì, perché poi ti fai l'orecchio, ho capito, ma a me piace cambiare. Adesso anzi metto anche l'altro. Stai uscendo bene, lascia stare tutto così, che va bene. Ecco, questo invece è l'altro Lincoln, sempre in accoppiata col più 5. Questo è meglio ancora dell'altro. Allora c'è la batteria scarica dell'altro. Questo picchia forte con lo smitter del mic, però è un po' meno watt. Non interessa nei watt, a me interessa la radio. Il segnale è leggermente più basso, la radio è super 5, non 5, super. Come ricezione è migliore anche questo, devo essere sincero. E vai a te, prova. Guarda come sto scendo io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo l'ho omologato. E tu hai solitamente la tua classica alternata con un'aggiunta di un eco. Non va bene, no, è peggiorato, era meglio prima la radio, però è sempre l'alternata. Antonio. Sono al telefono, ti. Cosa? È al telefono adesso. Ah, perché mi hai sballato la colonnina adesso. Beh. Santa pazienza, uno ne ha buono del baracchino, ne ha uno buono e non lo utilizza mai, per carità. Luca. Sì, dai, che sta passando questo coso, se riesco a sistemare, da già il microfono, là. Questo termomotivazione. Vabbè, ti piace questa modulazione? Bella, bella. E questo è il più 5. Di luce, pompone, torna a scarica. Aspetta che voglio provare. Ah, tu ti ricordi? Vabbè, sei al telefono ancora. Aspetta che provo un più 4, dai. Bella cagata. Tieni una di radio, gli altri butta dentro il cassonetto la mondezza. È quello che gli ho detto anch'io, però. Aspetta 2 minuti. Aspetta 2 minuti, aspetta. Io sono qua, io ci faccio dai. No, cioè c'è una radio che io ogni tanto lo sento che esce da favola, è sempre un kit in borichi, un kit in goci, ma lampade e tutto. Vabbè, ma Corino Condo. Sembrava Visitor, secondo con la modulazione, più alternata. Adesso è sembrato un po' Gigio. Calma. Di male in peggio. E la limitata più che altro. Lo sento anch'io lì. Aspetta un secondo. Indica cosa del microfono che c'avevo a... Oh, i riguglioni! Lo stesso difetto. La K. capsula devo cambiare, non è il problema per quello. A questo rumore che si sente, cosa lo stai avvolgendo alla busta della Mondez? Ah, è claro, già lo sai che tu è roba di cosa, di capsula, io adesso, sono bene che non lo uso. Allora, ti capisco, però cioè, non si può sentire una modulazione del genere, cosa vuoi che ti dica? Ma proprio da schifo, cioè bruttissima. Ma ne ha una in radio che funziona bene, perché non usa? Vogliamo essere cazzo, anche quella rotta, non è possibile. Aspetta, attacco l'otto 5-7 di là, così vediamo un pochettino. Perché non attacco questo, vedo, omologato, quindi 2 minuti e attacco con l'altro. E anche 5 ci può stare di minuti, soltanto mi fai sentire una modulazione buona. Sì, perché quando vuole esce bene Antonello, quando vuole, però non vuole. Non so se il 3009 che c'ha che esce bene con la salente o con che cosa, io lo sento molto bene. Poi quando si mette a fare intrugli, non si capisce più niente. Vabbè dai, ciao a tutti, ciao, io sto vagando da una camera all'altra. Io sono qua che sto guardando la TV, ogni tanto rispondiamo. Santiago 6, bombolo, arrivi. Beh, 5, 6, dai, un segnale basso, comunque. Io addirittura non lo sento neanche. Credo che sia coricato col portatile dentro casa. Così è tu, coricato sì. Tutte le batterie, mi riserva, ci sei. A tu. Marco lì, ritorniamo a bombola col portatile. Coricato col portatilino. Prova a schiacciare tu. L'hai sentito? Basso basso arrivo, mi ha mandato un vocale che è coricato col portatilino, sta ascoltando. Beh, cambia la cosa, c'è la tornata, c'è cosa? C'è cosa? C'è 857D, differenza c'è, sì. Non hai rumore, non hai niente, ma a volte balli sempre a dire a caricambone. Quello è il microfono suo originale, non è che sia... quindi a un certo punto, non so, la caricambone, cosa del genere. Guarda un po', ho capito, i tuoni e basta, lo sai anche tu. Tu hai un chicco, lo sai anche tu, cosa vuoi sapere io? Cosa vuoi sapere? Non so manco che radio stai usando, cosa vuoi sapere? C'è sempre un chicco, lo sai anche tu, cosa devo sapere io? Io non so niente di nessuno. La radio è la tua, la stai usando tu, la stai regolando tu, cosa vuoi sapere io? Io ci ho fatto la regolare, già lo sai anche tu, quindi mi è stato dato così da... l'apparecchio basta, rimane così, non è che posso cambiarmelo, no, l'857D, quindi a un certo punto in M è così, non posso farci niente, così è nato tono, e così è normale, quindi a un certo punto posso fare niente, l'ho sempre usato così. Vabbè, scusate, che mi devo alzare, che al dovere mi chiama, devo andare a mangiare una seada. Bravo Tino, io mi ho mangiato 2 frittelle, fra un po' me ne mangio altre 2. Ciao, a dopo. Antonè, a me quella radio non piace, non mi piace la radio in se stessa. La conosco da quando è uscita, non l'ho mai comprata, non mi interessa comprarla, perché in AM non è una radio da usare, ok, nel senso che non mi piace la modulazione. E tu stai uscendo tutto barattoloso, senza nessuna tonalità e senza nessuna spinta. Questo è quello che ti sto dicendo io. Se poi per te va bene, usala, ma non dire lo sai tu, cosa so io, non so niente, a me quella radio non piace, ok? Poi è una bellissima radio per fare altre cose, ma in AM a me non piace, non mi è mai piaciuta, né quella, né l'867, 897, 1027, 3627, sono radio che a me in AM non piacciono, preferisco parlare con un baracchino, punto. Cosa vuoi ti dica io? Ognuno c'ha... dice le cose su cosa vuoi ti dica io? Questo è come l'ho comprata io, il discorso è quello lì. Ed è a posto, non c'è nient'altro. Altro non posso fare. Ma nessuno ti sta dicendo che la radio non è a posto. Boh, non riesco, io non riesco a spiegarmi più, non so cosa dire, boh, veramente. Nessuno ti sta dicendo che la radio non va bene. È una bellissima radio, a me non piace. In AM è una radio che fa altre cose, ma in AM non mi è mai piaciuta. Né quelle né tutte le altre che esistono come quelle. Preferisco parlare con un baracchino, oppure parlare col Kenwood, basta. Questa è la mia opinione. Tutte le altre a me non piacciono in 27. Sono radio che si fanno sentire ma non escono bene. Questa è la mia opinione. Poi se tu l'accetti, l'accetti. Nessuno sta dicendo che la radio non va bene, o ti hanno fregato, o che cosa. Io sto esprimendo il mio parere. A me non piacciono quelle radio in 27. Sono radio che devono fare altro, non in 27. 27 va meglio un baracchino di quella, capito? E tu potresti uscire col baracchino che esci sempre, non so se è il 3009, non lo so, perché ne hai tanti. Comunque hai un baracchino che esce bene, che ti ho sempre detto, esci benissimo. Quindi usa quello e questa, rimettila dov'era, perché a me non piace. Ho capito, vabbè, non lo dico io. Vabbè, non so cosa dirti. Io questa lo uso sia qui e sia in altre frequenze, quindi non possiamo... Cioè, non concordo con te, cioè come stai dicendo, a un certo punto quindi, ascolto, vabbè. Il 27 userò una cosa, e in altre bande userò un'altra per aspettare gli altri, cosa ho fatto di vita io? Pazienza, non succede niente, non, nessuno si arrabbia, il discorso è quello lì. Ma è modo più assoluto, Antonio, io sono schietto parlando. È certo che devi fare così, quella la usi per altri scopi, che tu sai, che tu fai, a me non interessa sapere per quali scopi la usi, e il 27 usi il baracchino che io ti ho sempre detto vai benissimo, ma questa non mi piace, non ha niente, è spenta, capito? Senso di è spenta, spenta, non ha tonalità, non ha potenza di radio, non ha... è meglio il baracchino, credimi, quella usala per farti le altre cose tue che sai tu, a me non interessa, però io mi hai chiesto un parere e il mio parere ti sto dando, quella radio, il 27 fa caccare, ok? Vabbè, vuoi dire cosa la vuoi dire, il lavandino, cosa vuoi che dica io, in trasmissione, boh, non lo so, vabbè, comunque sia, pazienza. Comunque la rimane qua, questa qua, l'ho pagata, me l'ho comprata, la porto 140, quindi nel 80, quindi a questo punto me la tengo qua. Piace, non piace, agli altri non me ne fate nulla, rimane qua. È una radio che costa 1000, passa euro, quindi se costa 1000, passa euro, vuol dire che un tipo ci sarà. L'altro non ti posso dire. Anzi, è un apparecchio molto richiesto, meglio del 140, del 80, del 440 che ho visto ieri su Facebook, eccetera, eccetera, che sono dei lavandini che non servono proprio a niente, è roba vecchia, e quindi a un certo punto meglio un baracchino normale, la verità che quelli là. Meglio, anzi, meglio l'apparecchio cinese che fanno una frequenza decametrica che è 4,40 adesso, come adesso, la verità. Tutto c'è un apparecchio cinese che fanno una frequenza decametrica, fanno 10, 20, 40, 80. Questa è una cazzata, vado in banda, questa mi sembra 200 euro, 300 euro, una cosa che io invece me l'avevo visto, ma comunque sia, sono molto meglio. Ma, meglio il protettorato, eccetera, eccetera, c'hanno l'eco, c'hanno tutto, c'hanno 100 watt, c'hanno... tutto quello che vuoi, ci manca solo che ti faccia il caffè, e basta. Comunque sia, beh, io rispetto le tue cose, tu rispetti le mie, grazie a Dio, è così, quindi altro non ti posso dire. Perché c'è questa malattia, non me lo uso, dopodiché quando mi sono tutto, pazienza, lo darò. Quello che è, eccetera, eccetera. Il tempo non lo avevo 200 euro, siccome la vendono 500 euro, in contanti l'apparato da qui va via, non c'è problema. Poi facciano quello che vogliono, io apparati vecchi, eccetera, eccetera, non li voglio più. I 30 anni, i 20 anni, quello che è, grazie a Dio. Scende, qua di banda va bene il 27, va bene il 144, va bene il DMR, a me mi piace applicato per quello, perché lo uso per quello, tu lo sai, anche tu. Il 27 uso il termine 9, c'ho il Connex 4000, c'ho anche l'altra palata, il 2300 sabbia, la roba, roba. Piccato lo fa di girare ogni tanto, solo che quando a volte i microfoni li tieni sospesi da una parte, ti crea problemi, perché è tutto per così, non ci possiamo fare niente, né io ritengo nessuno, ma le risposte per lui. Anche io a parte nuovi, questo è quello. Pazienza, vabbè, comunque sia. Tutto a posto. Non è successo niente. Antonio, mi hai succhiato il cervello, ci hai fatto un passaggio alla balcone e non hai detto nulla. Ma chi ti ha detto niente? A te il cervello te ne hanno succhiato. Quella radio quando è uscita costava 600 euro, adesso è passata a 1000. Ma stai scherzando, quello è un quadribanda che ti ho detto che il 27 non serve a niente. Poi tu sei libero di usarla dove vuoi, con chi vuoi, e sei per sei. A me non me la futti, manco ballante camera delle balle. Chiuso il discorso, ok? Fai quello che ti piace, a me non mi raccontare niente, che basta le cose mie, non devo pensare anche le cose tue, te l'hai comprata, usala, e usala dove vuoi, con chi vuoi, a me non me ne fotte nulla, Antone. Io ti ho semplicemente detto che quella radio in AM è uno schifo, punto. Hai fatto un sacco di giri alla Falcone e non hai detto nulla, dai, chiudila qua che non me ne fotte nulla, usa quello che ti piace. Ok, non c'è problema, non succede niente, fregati, me lo tengo io. Da una parte, io ho fatto l'affare, tu non lo so gli altri. Ci metti in mezzo una cagata di radio che non ha fatto, non è andata da nessuna parte, con la storia del 440, del 430, delle radio Kevod. Antone, ma di cosa ci va vedendo? Di birra o di radio? Eh? Ma cosa stai dicendo? Ma di cosa stai parlando? È chiaro che vuoi mettere quella cagata di radio con la storia che hanno le radio Kevod. Dove che c'hai in mano un giocattolino che non è andato da nessuna parte? È un quadribanda che non serve a nulla. Poi se tu hai fatto l'affare, non hai fatto l'affare, questi non sono problemi miei. Io non comprerei mai una radio del genere. È molto meglio il 706 MK2G di quella, ma mille volte superiore, capito? Dai, fai quello che ti piace, Antone, che già cazzo c'è, cazzi mio, non lo pensare anche tu, dai, ciao. Vabbè, ho capito che hai le palle girate stasera. Non ti preoccupare, non è niente. Calma, ti date una calmata e poi domani mattina ci pensi. Cosa hai mangiato? Un volpino ti hai mangiato? Un brodino. Un brodino di mammo. Ah, beh, di mammo si è mangiato. E comunque va bene, Claudio ha ragione, sono cose già dette e ridette, Antonio. Poi tu stai usando il tono cupo, devi usare l'altra posizione e parlare a due dita, massimo a tre dita dal mic. E quella radio l'abbiamo detto già da prima di venderla, che non è fatta per la M, è fatta per la banda laterale e per l'FM. Se volevi una radio che usciva bene, in AM ti dovevi tenere il Kenwood, capito Antonio? Quella fa tutto, però è un compromesso, non è per la M, capito Antonio? Però usa l'altra posizione del mic, perché sei cupo così. Doveva entrare Marco a spiegarti le cose, perché io non mi so più esprimere, Antonio. Quello che ti ha detto Marco ti ho detto mio, e tu hai girato e non hai detto nulla. Cioè io ho i problemi miei, i fatti miei, e tu mi vieni a raccontare la storia di una radio che non serve a niente in AM. Ti ho detto che in AM non serve a niente, fa altre belle cose, ma in AM non serve a niente, capito? Non ha niente a che fare con la storia del 440, con la storia del 430 e delle radio Kenwood. Non ha niente a che fare quella. Quelle radio hanno una storia, questa di storia non ne ha, perché non ne ha mai parlato nessuno di quella radio, capito? Che poi sia una bella radio, nessuno te lo sta dicendo, però sono altre cose. Io ti dico che quella radio in AM non va bene, punto. Non te, tu stai due ore a parlare, me l'ho comprata, me la tengo, me la faccio, non la do a nessuno, ma cosa me la futa a me? Guarda, io non so cosa dirti, la verità, manco ti rispondo la verità, io non so cosa dirti, la verità. Buonanotte Claudio, sentiamo, dai. Sei posato questa palla di coccoli, non ti sei mai lamentato, quindi a un certo punto non ti rispondo nemmeno, guarda. Uso il terminal 9, uso il terminal 9, a culo, a un certo punto, e basta. E sono a posto, vabbè. Così sì, siamo contenti tutti, nessuno si attuffa, eccetera, eccetera, ok? Tutto va bene così. Tu devi andare in pace con la tua coscienza, Antonè. Ma chi è che si azzuffa, chi è che ti dice niente? Ti vai du-tu-du. Ti vai du-tu-du. Adesso attacco un'altra radio e cosa mi attacchi? Una radio peggio di quella che avevi prima. Non ti sento del radio, sei basso, sei cupo. Te l'ha già detto Marco, attaccati il baracchino, quella usala per fare altre cose che sai tu a me non interessano. Ma come te lo devo dire? Mi hai fatto una domanda e ti sto dando una risposta, punto. Minchia, ma ci vuole molto a capirlo, Antonè. O te li devo mandare un'email? Un'email certificata, Ciao Antonè, buonanotte, buonanotte a tutti. Minchia, cazzo. Ogni volta avanti ci sto, ragazzi. Mamma mia, come sto. Ciao, ciao, preferisco abbassare il volume e guardarmi la televisione, dai, ciao a tutti. Ciao, ciao. Che cazzo, non ce ne può più, Ogni volta rigira, rigira, rigira, non dice nulla. Me l'ho comprata, me l'ho fatta, ho fatto una... Ma chi ti sta dicendo niente, Antonè? Ma con i soldi tuoi puoi fare quello che vuoi. A me mi hai fatto una domanda, mi hai chiesto un controllo e ti ho detto, quella radio in AM non va bene. È una bellissima radio per fare altre cose. E tu hai fatto tutta una bappardella. E ne dira, che se la comprerà? Io me la devo comprare. Ma se la dai a me la pongo giù tra i beni, ma cosa me ne vuole una radio del genere? 1.000 euro costa, inteso le Marco, 1.000 euro costa. Cazzo, quando è uscita costava 600 euro, ma costa 1.000. No, perché lui vede questi prezzi del mercato cinese, che sono prezzi assolutamente fuori mercato, non esiste. Quella in Italia costava forse 800, IVA compresa, sì, più o meno ricordo una cosa del genere, però non è una cosa per la M, è per la banda laterale e per l'FM, per i radioamatori, basta, non per la M, basta, l'abbiamo già detto 1.000 volte, ciao Antonè, dai, sentiamo in condizioni migliori da parte tua, ciao. Hai detto bene. Claudio, a un certo punto. A un certo punto. Mi sei tu la vita della televisione, a un certo punto.